Scrivo in blu, non sono un caso classico, sta roba deve dare il massimo. Scrivo in blu, volto un'altra pagina, la mente è lo specchio dell'anima. Scrivo in blu e non cambio colore, perché voglio che ne senti il sapore. Scrivo in blu e non cambio più, la parola resta scritta in blu. Com'è, come non è, una sorta di finzione. Dettaglio del profilo, foto e mistificazione. Attento al testone, altezza d'uomo, taccarezza. Testosterone, dopo lacrime e tristezza. Se all'altezza o quando all'angolo si accusa. La mente ti si spegne e la finestra resta chiusa. Parentesi conclusa come la TAV in Val di Susa. E qui rimani tu, faccio da pirla come Charlie. Ascoltando Bob Marley o girando su un Harley. Io non mi fido di te quando parli. C'è una novità, anche la fortuna è in vendita, ma tu se provi a prenderla finisce che ti indebita. Questo rap dedica alla gente che predica bene, razzola male gente normale, che non ha niente di speciale, tutto per sentire questo ritmo che sale. Scrivo in blu, non sono un caso classico, sta roba deve dare il massimo. Scrivo in blu, volto un'altra pagina, la mente è lo specchio dell'anima. Scrivo in blu e non cambio colore, perché voglio che ne senti il sapore. Scrivo in blu e non cambio più, la parola resta scritta in blu. Scrivo in blu sopra il bianco di un foglio. Non è che scorra tutto quanto liscio come l'olio, non raggiungo ciò che voglio. Quella fitta è soltanto il cervello bloccato dall'orgoglio. Anche tu come Marcellus, provaci, corrompimi. Ti assicuro come te ne ho visti molti di uomini, ma forse è meglio usare altri acronimi. Rimanere attoniti cercando di mordermi attorno a specchi, brutte copie di voi stessi, riflessi. Guardate un po' com'è che state messi. Gli eccessi concessi non portano amplessi. Meglio che torniate tutti a casa come lessi. Fiducia zero quando manca il rispetto. Proteggo il rapporto con le strane nel letto. Sincero, vero, chiaro il mio concetto. Scrivo in blu come il livido che porto nel petto. Scrivo in blu, non sono un caso classico, sta roba deve dare il massimo. Scrivo in blu, volto un'altra pagina, la mente lo specchio dell'anima. Scrivo in blu e non cambio colore, perché voglio che ne senti il sapore. Scrivo in blu e non cambio più, la parola resta scritta in blu. Più che ne so,